giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 19 donne arrestate ed altre denunciate nell'inchiesta della mobile di Udine sulle badanti georgiane con finti documenti comunitari. Inaugurazione dell'anno giudiziario con protesta a Trieste. I magistrati contrari alla riforma Nordio lasciano l'aula magna. 9 anni senza Giulio Regeni, questa sera manifestazione nella sua Fiumicello, numerosi politici e personalità attesi. Riapre passo di Monte Croce Carnico verso l'Austria dopo la frana di dicembre 2023, viabilità con limitazioni fino ad aprile. Assemblea degli autotrasportatori a Udine, al centro il contratto collettivo appena rinnovato e il rischio d'Italia e i fondi concordati. Pericoloso mix tra il rischio di dazi verso gli Stati Uniti e il caro per la CGA e l'economia regionale e rischio stagflazione. A Ronchi di Percoto in corso la 50ª cerimonia del premio Nonino, 500 ospiti nelle distillerie festeggiano i premiati. Sport, nel basket di A2 Udine riceve Brindisi, Cividale Arieti e l'APU saluta Dalej Pagic che si è spento a 73 anni, trascinò i bianconeri in A1 nella stagione 83-84. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli, badanti arrestate e denunciate in diverse regioni nell'ambito di un'inchiesta della Questura di Udine partita da segnalazioni di assistenti apparentemente di nazionalità georgiana che si spacciavano con documenti falsi per cittadine comunitarie, aggirando così paletti d'ingresso posti dal decreto flussi. 52 perquisizioni in tutta Italia, 19 donne di nazionalità georgiana arrestate, 6 a Pordenone e 17 denunciate in stato di libertà per possesso di documenti falsi, tra queste 10 a Udine. Sono i numeri dell'operazione condotta dalla squadra mobile e dalla questura di Udine in collaborazione con altre questure italiane sul soggiorno illegale sul territorio nazionale di decine di badanti georgiane. Le arrestate sono accusate di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Inoltre saranno espulse se non risulteranno avere i requisiti per il soggiorno legale in Italia. L'attività investigativa è partita dalle segnalazioni ricevute dagli uffici territoriali delle agenzie delle entrate della provincia di Udine, nei quali le donne presentavano documenti di identità falsi di paesi dell'Unione Europea come Slovacchia, Polonia e Lituania per ottenere il codice fiscale comunitario e poter poi lavorare come badanti, aggirando le normative sugli immigrati extracomunitari. Francesco Leo, dirigente della squadra mobile della Questura di Udine. Le cittadine georgiane, e in questo modo non necessitavano di un permesso di soggiorno, in quanto apparivano come comunitarie, e ottenendo il codice fiscale italiano, presentando questo documento comunitario, riuscivano a circolare liberamente sul territorio nazionale, a ottenere lavoro come badanti e dopo anche a fruire eventualmente del servizio sanitario nazionale. Dall'indagine coordinata dalla Procura di Udine è emersa l'esistenza di un'organizzazione ben strutturata che fabbricava e distribuiva i documenti falsi per circa 600 euro a persona. Le indagini continuano per individuare chi ha procurato i documenti falsi e verificare se gruppi criminali di altri paesi extracomunitari stiano utilizzando lo stesso metodo per altre attività illecite. Udine, Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Giustizia esercitata con efficienza e celerità nel distretto della Corte di Appello di Trieste, ma resta il nodo di organici deficitari, in particolare tra il personale amministrativo, ma anche il numero dei giudici onorari è inferiore al necessario. Anche gran parte dei magistrati del distretto della Corte d'Appello di Trieste ha aderito alla protesta proclamata dall'ANM e quando ha preso la parola il rappresentante del Ministero della Giustizia, Ettore Sala, i magistrati seduti tra il pubblico si sono alzati in silenzio e in fila sono usciti dall'aula magna dell'Università di Trieste. L'aula magna dell'Università di Trieste ha ospitato la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 per inagibilità dell'aula della Corte di Appello a causa di un'alluvione avvenuta a giugno. Una cerimonia tuttavia segnata dall'uscita della maggioranza dei magistrati e dei giudici con la Costituzione in mano e la coccarda tricolore sulla toga in segno di protesta contro la riforma Nordio, nel momento in cui è iniziato l'intervento del rappresentante del Ministero della Giustizia, Ettore Sala. Per i togati che aderiscono alle proteste dell'ANM, la separazione delle carriere porterà ad assoggettare i PM al potere esecutivo. Un rischio evidenziato anche nell'intervento del rappresentante del CSM, Maria Luisa Mazzola, che ha sottolineato come negli ultimi 5 anni sia stata minima la percentuale del cambio di carriera dei magistrati. Mazzola ha anche evidenziato come lo sdoppiamento del CSM porterà a uno svilimento dell'organo di autogoverno della magistratura. Il presidente della Corte d'Appello di Trieste, Sergio Gorian, nella sua relazione si è concentrato sul servizio che il distretto offre al cittadino. Ha definito ottimali le tempistiche della giustizia civile, tra i primissimi posti in Italia dal 2025. La Corte tratterà solo procedimenti dal 2023 e ha così raggiunto già gli obiettivi del PNRR. Anche il settore penale ha subito un'accelerazione delle tempistiche con una conseguente riduzione delle pendenze di ben 700 fascicoli, ma permane una carenza di organico amministrativo. Su 70 addetti ce ne sono in funzione 50. Trieste, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mentre il piano oncologico regionale si appresta ad approdare al CALI, il Comitato per la Salute Pubblica di Pordenone ha organizzato un incontro aperto a tutti sulle conseguenze di quel piano per la sanità pubblica pordenonese e per il CRO di Aviano. Giorgio Simone, epidemiologo, già dirigente dell'azienda sanitaria numero 5, ne spiega l'importanza. Perché il piano oncologico è importante e in particolare per Pordenone? È importante perché ha a che fare con la cura di queste persone e ha a che fare con il fatto che c'è necessità di una rete, che queste persone vengano accolte ovunque si trovino e abbiano il massimo della qualità possibile e immaginabile per le cure oncologiche, che ormai hanno fatto passi in avanti enormi. E nel caso di Pordenone? Nel caso di Pordenone bisogna tener conto di due cose. La prima è che qui abbiamo un istituto di ricovero e cure di carattere scientifico, che è il CRO, che a Valencia regionale, non solo pordenonese ma nazionale, perché metà delle persone che si ricoverano al CRO o arrivano al CRO vengono da altri luoghi, quindi questo è un punto importante da preservare e anzi da valorizzare, perché è un di più della nostra regione, non solo di Pordenone. E cosa è importante fare per valorizzarlo? Per valorizzarlo e dargli il ruolo che deve avere, cioè essere un punto di riferimento non solo per i pordenonesi, che ne sono orgogliosi, ma per l'intera regione. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La sera del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni, giovane ricercatore di Fiumicello, inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo prima di scomparire nel nulla. Il suo cadavere, con evidenti segni di tortura, fu ritrovato poi il 3 febbraio lungo l'autostrada che collega il Cairo ad Alessandria. A Fiumicello, Villa Vicentina, alle 19, nel piazzale dei Tigli, ci sarà l'intervento del governo dei giovani, seguito dal flash mob, onda gialla, dal minuto di silenzio ed una fiaccolata. Alle 20:30, alla palestra del pattinaggio, sempre a Fiumicello, parole, immagini, musica per Giulio, oltre ai genitori di Giulio Regeni e all'avvocata Alessandra Ballerini, che segue il processo, saranno tante le personalità presenti, l'attore e regista Pif, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bertoli e poi dal mondo della politica la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex presidente della Camera Roberto Fico, l'onorevole Gianni Cuperlo. Anche a Bagnaria Arsa si ricorda oggi Giulio Regeni. Il comune, insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, ha organizzato una camminata che partirà alle 17:30 dalla scuola primaria Margherita Hack per raggiungere il municipio. Una delegazione del Consiglio dei Ragazzi sarà poi a Fiumicello. Regeni sarà ricordato in tante città del paese anche con iniziative social. Ora la viabilità. Oggi alle 14:30 la riapertura del passo di Monte Croce Carnico, chiuso dal dicembre del 2023 a causa di una frana. Come aveva dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante, a margine di un incontro a Kocach Mauten, presente anche il vicegovernatore della Carinzia Martin Gruber, la viabilità avrà limitazioni in termini di orari con modalità di senso unico alternato e la strada sarà riaperta in maniera completa verso la metà di aprile. Per il futuro assetto del passo invece individuate 3 alternative, una variante esterna con 2 possibili tracciati, una variante di traforo di base e una di traforo in quota, tutte fattibili, ha detto Amirante. Quella scelta dovrà rispondere ai requisiti della massima sicurezza e percorribilità in tutti i periodi dell'anno, riducendo i rischi di chiusura, in particolare d'inverno, e rispettando le economie locali a forte vocazione turistica e anche evitando l'aumento dei mezzi pesanti. La soluzione sarà presa entro l'anno. A Udine si è tenuta l'assemblea dell'Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia, che si sono riuniti per conoscere i dettagli del contratto collettivo nazionale rinnovato lo scorso 6 dicembre. Si tratta di un testo che vale per tutte le categorie, dal piccolo trasportatore alle aziende, per un comparto che in Italia conta 1 milione di lavoratori per circa 90.000 imprese. Ma nel corso dell'incontro si è discusso anche di altro. Ne abbiamo parlato con il segretario regionale dell'Associazione, Giulio Ziglio. Si è parlato ovviamente del dato retributivo, perché come tutti i contratti prevedono insomma degli incrementi retributivi, ed era necessario dare una risposta alle richieste che pervenivano dovute insomma all'inflazione che c'è stata negli ultimi anni, alla perdita del potere di acquisto, ma si è sfruttato anche questo rinnovo per inserire tutta una serie di norme, di clausole che lo svecchiasse un po', che lo rendesse più attraente anche nei confronti dei nuovi e potenziali lavoratori. Però avete parlato anche di un problema che potrebbe coinvolgervi, che è quello relativo alle nuove decisioni del Ministero. Di cosa si tratta? Sono emerse negli ultimi giorni su alcune tabelle ministeriali delle decurtazioni su dei fondi strutturali. L'autotrasporto gode di una serie di fondi che servono per il sostegno, che sono previsti da varie leggi e sono già da vari anni. Sembrerebbe che per i tagli lineari che vengono imposti ai ministeri, che anche il trasporto si veda ridurre delle risorse, che anzi ce ne sarebbe invece bisogno che aumentasse. Quindi si sta cercando di capire, no? Perché se sono confermati vuol dire che vanno a incidere sui rimborsi dei pedaggi oppure più sulle deduzioni che possono avere le imprese di trasporto. Questo insomma è abbastanza preoccupante. Quali sono le condizioni dei trasportatori oggi con questo nuovo contratto? Da una parte il nuovo contratto, che era un passo necessario perché era scaduto al 31 marzo del 2024, quindi un elemento molto positivo, però chiaramente le imprese di trasporto si vedono aumentare dei costi legittimi, nel senso che le imprese di trasporto capiscono la necessità di aumentare le retribuzioni. Il problema delle imprese di trasporto però è farsi restituire un po' questi maggior costi dai clienti, che sono la grande committenza sostanzialmente. Quindi c'è un problema di redditività, c'è un problema di recupero di questi costi maggiori, e c'è sempre la preoccupazione perché vi è una carenza di personale viaggiante, insomma abbastanza importante, che si stima insomma su circa il 7-8% della forza lavoro. Preoccupa anche gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia la possibile introduzione di dazi da parte dell'amministrazione Trump, ad essere temuti non solo gli effetti sull'export, ma anche una impennata dei costi energetici, un mix letale che secondo i calcoli dell'ufficio studi della CGA di Mestre comporterebbe il rischio per l'economia di una fase di stagflazione. Gli USA sono il secondo mercato di sbocco per le esportazioni regionali, con un valore che nel 2023 è stato di 2 miliardi 300 milioni di euro, oltre il 12% dell'intero export regionale. A fare la parte del leone la produzione di navi e imbarcazioni. Secondo la CGA va evitato il crollo dei consumi interni, difficile però se l'inflazione dovesse tornare a crescere. Di qui la necessità di introdurre a livello europeo un tetto al prezzo del gas e di spendere bene dentro la scadenza le risorse del PNRR. Ancora a disposizione 130 miliardi per consentire l'aumento del PIL. Una persona è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto intorno alle 23 di ieri a Reana del Royale, dove 2 vetture si sono scontrate in via Primo Maggio. Una di queste apparteneva a una ditta di vigilanza privata. 3 le persone coinvolte. Quella più grave è stata estratta dall'automobile dei vigili del fuoco e dal personale della SORES e ora è ricoverata e intubata in codice rosso per trauma cranico e toracico. Codice giallo e verde per gli altri 2, il passeggero e il guidatore dell'auto della vigilanza privata. Il meteo, ora il cielo è coperto sulla regione, alle 11 a Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine c'erano 9 gradi, a Tarvisio 7 gradi, a Tolmezzo 6, a Forni di Sopra 5 gradi, sul Piancavallo 2, a Sappada 5 decimi positivi, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan meno 2, sulla costa Lignano e Grado 9 gradi. E queste invece sono le previsioni. Oggi pomeriggio cielo coperto con foschie, nebbie locali e qualche piovigine. Tempo migliore verso il cadore nel Tarvisiano. Per domani cielo coperto con piogge deboli e intermittenti sulla costa, moderate in pianura, più continue e abbondanti sui monti, specie sulle prealpi Giulie, meno nel Tarvisiano e verso il cadore. Quota neve in genere oltre i 1300 metri circa. Sulla costa soffierà vento da sud, da moderato a sostenuto. La cultura, le distillerie di Ronchi di Percoto, in corso la cerimonia per la consegna dei premi Nonnino, 50ª edizione, la prima senza il patriarca Benito. Poco fa il simbolico passaggio di consegna alle tre figlie, ma sentiamo in diretta quali sono i premiati e come sta andando la festa. Con 500 ospiti in diretta c'è Marinella Chirico. Visionario anticipatore, il premio Nonnino taglia il traguardo del mezzo secolo di vita ricordando Benito. Dopo un commosso video dedicato alla moglie Giannola e da tutta la grande famiglia alla patriarca scomparso nel luglio scorso, il passaggio simbolico di consegna alle tre figlie, Cristina, Antonella ed Elisabetta. A loro il compito di aprire quest'anno gli alambicchi davanti a 500 invitati. Alle distillerie di Ronchi di Percoto si rinnova dunque una festa dalle radici antiche che anche quest'anno guarda al mondo con protagonisti internazionali. Le premiazioni sono cominciate, il primo a salire sul palco è stato il vincitore del Resist d'Aur, Ben Little, 58 anni, scrittore, blogger e divulgatore, irlandese di nascita, friulano di adozione, è il cantore del leggendario Pignolo, un'uva a bacca nera, vitigno autoctono friulano, trascurato ma documentato fin dal 1300, cui Ben ha dedicato studi, ricerche e anche un libro. La giuria presieduta dal neuroscienziato e saggista portoghese Antonio Damasio ha assegnato il premio internazionale Nonnino al poeta e romanziere tedesco Michael Gruger, 84 anni, autore poliedrico e raffinato intellettuale, oltre che editore di notevole sensibilità, con le sue opere attraversa tutta la nostra epoca, ha più di 40 libri al suo attivo. Il premio Nonnino 2005 va invece a Dominique de Villepin, 71 anni, diplomatico, scrittore e politico francese, già primo ministro col presidente Chirac, intellettuale raffinato ed europeista convinto, da sempre impegnato per la pace. Infine premio Nonnino a una maestra del nostro tempo, viene assegnato a Germaine Acogny, 81 anni, danzatrice e coreografa franco-senegalese, leone d'oro alla carriera alla Biennale di Danza nel 2021, donna straordinaria come la sua terra, è considerata la madre della danza contemporanea africana. Qui la festa continua, la linea allo studio. Grazie Marinella Chirico, ancora alcuni appuntamenti con gli spettacoli al Kulturnidom di Gorizia, alle 20 concerto di beneficenza transfrontaliero con il cantante sloveno Vili Resnik e il gruppo Love Lorna di Nova Gorizia, il ricavato al reparto dell'ospedale Franz Dergans per la cura dei bambini disabili a Staragora. Ad Hangar Teatri a Trieste, i Pantaloons, la band che mescola folk, rock e pop per il terzo anno di collaborazione con il Couch Festival alle 20.30. Ultimo evento per note del Timavo Tango da pensare alle 20.30 al Kulturni Center a Gorizia, prima parte dedicata a due vincitori della sezione pianoforte, seconda parte con incontri sintonizzati, un appuntamento dal titolo Piazzolla e le sale da concerto, ospite il maestro Ugo Eisenberg. L'auditorium oratorio Santa Cecilia di Pradamano ospita alle 20.45 Lana Suran, pianista svedese con una brillante carriera solistica internazionale. Omaggio a Ossi Cinner, scultrice grafica scomparsa nel 2014 a Villa Antonini Belgrado a Saciletto di Ruda, fondò il Centro Internazionale di Grafica inaugurato nel 70 alle 20 al Teatro Pasolini di Cervignano. All'Arcicrale di San Vito al Tagliamento serata di musica live con Savannah Funk e Filaments of Existence. Inizio alle 21, ingresso con contributo responsabile. Le mostre Mythos, il titolo delle personali di Giusy Baldissera e Roberto Molaro, che saranno inaugurate alle 18 alla Galleria d'Arte Contemporanea, alla Loggia di Udine. Per l'edizione di Performa al Palazzo De Grazia a Gorizia ci sarà MM Moca, Meta Multimuseo delle Caffè, oggi alle 17, domani alle 11 e alle 16, un percorso installativo e performativo di 45 minuti per 30 spettatori alla volta. Con Alma, Polifonia di una terra di confine, la scrittrice Federica Manzon presenta il suo ultimo libro, vincitore del premio Campiello e dello Stresa, al circolo culturale sloveno Igo Gruden di Duino Aurisina alle 17. Alle 16 alla libreria Minerva la presentazione del romanzo Se la rosa non avesse il suo nome di Andrea Pennacchi, presente l'autore. Sempre a Trieste alla Lovat Paolo Colombo presenta il libro Un sogno così alle 18. A Meduno, a Palazzo Colossi alle 17.30, il professor Andrea Maggi con il libro Il mio Socrate, storia di Veronica Vero, una 14enne arrabbiata, docente del Pordenonese. Maggi è noto come il professore anche sul piccolo schermo per il docu-reality di Rai 2, Il Collegio. E adesso lo sport, in apertura la notizia della morte a Belgrado di Dražen Dalipagić, il cestista serbo nella stagione 83-84 aveva trascinato Udine in una cavalcata che aveva portato i friulani alla promozione in A1, entrando così nel cuore di tutti i tifosi bianconeri del basket. Aveva giocato anche a Venezia, a Verona, oggi lo ricorda tra gli altri l'APU Udine, eletto per 3 volte miglior giocatore europeo dell'anno, 243 presenze con la nazionale jugoslava, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nell'80 e ai mondiali del 78, oltre a 3 titoli europei. Nel 2004 Dalipagić è stato inserito nella Basketball Hall of Fame. Altri appuntamenti di oggi nel basket di A2, nell'anticipo della 23esima giornata, l'APU Odoardo West affronta in casa Brindisi. Per i bianconeri di Vertemati vincere significherebbe consolidare la prima posizione in classifica, palla A2 alle 20.30. Per la Gesteco Cividale invece giocherà fuori casa contro la Sebastiani Rieti, reduce da un grande risultato a Cantù, inizio alle 21, mentre nel basket femminile di A2 trasferta insidiosa per la futurosa Trieste, che incontrerà Matelica, palla 2 alle 18.30. Per il volley in A1 femminile CDA Talmassons ospita Pinerolo, nona in classifica. Per le ragazze di Barbieri fondamentale conquistare 3 punti per continuare a sperare nella salvezza. Si inizia alle 21 la partita trasmessa da Rai Sport. Pallanuoto femminile, impegno internazionale per Trieste stasera, che giocherà la gara di andata delle semifinali di Eurocup contro la Tenerife Eceide alla Bruno Bianchi, inizio alle 20.30. E per lo sci questa sera 13esima edizione della Vertical Ravascletto Zoncolan Memorial Rudy De Infanti, gara di sci alpinismo, ramponcini e ciaspe. Si inizia alle 19, la gara di sci alpinismo mette in palio i titoli regionali della disciplina Vertical per tutte le categorie, a seguire la gara Open riservata a ramponcini e ciaspole. Le rubriche della TGR domani su queste frequenze, dopo il giornale radio della domenica, torna Vita nei Campi, la trasmissione dedicata ad agricoltura e gastronomia. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura le principali incombenze burocratiche del 2025 in agricoltura. A seguire, dall'archeologia, le prime testimonianze della presenza della vite in regione. Un letto di foglie, soluzione ideale per una pacciamatura invernale dell'orto. Prima puntata sulla storia della canna da zucchero e le sue vicissitudini. E ancora nella rubrica del vino, i problemi di conservazione legati al filante, girato e all'amaro. La remota e poco conosciuta foresta carnica di Corce nella rubrica dei boschi e degli alberi. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre domani sulla terza rete TV Rai alle 11.05, prima su Radio 1 Rai alle 6.05 andrà in onda Est-Ovest, rubrica dedicata ai paesi dell'Europa orientale e dell'area balcanica, la scaletta. A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, la memoria della comunità ebraica in Slovacchia. La corruzione politica in Albania, un malcostume combattuto da una procura speciale. La presenza militare della NATO in Estonia per prevenire possibili attacchi dalla Russia. A Gorizia, che con Nova Gorizia sarà capitale europea della cultura, una mostra è dedicata a Ungaretti. A Bari mostra i disegni dei bambini ucraini di Kherson colpiti dalla guerra. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. Alcune altre informazioni prima di chiudere. A Udine, kit di sopravvivenza per genitori digitali organizzato da Attiva Lab e MEC in via Porzus 62 dalle 15 alle 16.30 per bambini e ragazzi. Alle 14.30 al centro giovani in via Pontini a Pordenone sarà scoperta una targa per ricordare Safa Amudi, ragazzina di 13 anni scomparsa prematuramente la scorsa estate, che frequentava quotidianamente i centri giovani. Alle 17.40 al Circolo Libertario Emiliano Zapata di Via Angaresca, Pordenone, progetto Cronache Ribelli, la presentazione del collettivo Cannibali e Re, che attraverso le piattaforme social si pone l'obiettivo di creare uno spazio di racconto storico alternativo. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Paolo Cassano e Mauro Cumini. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.